esiste, ma questo nominativo non mi è nuovo. Ma fu triste, era un vecchio CD. Zio! E sempre tu? Sì, era un zio! Brava. Non mi è nuovo perché già da 30 passati fa, quando non duravo, c'era questo baffo triste. Poi non so se sia ancora lo stesso, però c'era. Ma lo stavo durando? Senti? Sì, che ti sei, certo, ma non mi è venuto lì. No, sono Pietro di Cinchi. Ah, cattata, ho capito. Faccio capito. Ma sai, antenna fissa sembra la moto. Di macchina. Ah, cattata. Oggi arrivi bene, dai. Arrivi bene. Che dirti, sono in compagnia di Gian Maria Figaro e poi anche di Graziano Gufo. Avanti. Ciao, ciao Roberto. Ma attento, mi colpi, ma un po' triste. Che ha parlato? Questo è Graziano, avanti, Gufo. Prova a ridare, dire, che dire, tu. Mi sono anche adesso, mi faccio il bagno e me la sto a fare un po' di spesa, perché purtroppo tocca a me. Purtroppo devo uscire anch'io. Il capo. Via. Sono già uscito. Sono a mezz'ora, uscito il capo. Via. Chi è questo che è entrato, che non l'ho riconosciuto? Ma io. Diceva a me, sono andato in macchina, cioè devo andare a prendere l'acqua io, perché l'avevo terminata e se ne vado insieme, ce lo salto io. Ah, te lo volevo chiedere, volevo entrare in frequenza prima e volevo dire se c'è qualcuno disponibile a un passaggio. Perché se lo chiedo io, devo andare adesso, non è che riesco da andare di quella dritta, devo fare il bagno e poi vado. Però non ci siamo accorti che non c'è l'acqua. Purtroppo c'è la parte dell'aveva quasi finita, c'era una bottiglia, ma avete voluto pure la leva. Ah, Luca! Corgia! Luca! Corgia! Quando con la scheda di quel computer? Va? Quanto? Quanto cosa? Quanto i soldi? Niente, la ragazza. Baffa! Infatti la banda. Perché non lo so, vogliamo un radio, eh? Funziona. No, lo so, non sapevo quello, se non sei salito, ma già sono più in fuso. Da chi vino esce? Ti piglia molto di fame, mi raccomando. uscire perché devo fare la spesa, se no mangiamo stanotte e domani. Come? No, io una volta lo pianerò troppo. invece i barattoli di imperati hanno, quando c'è la prova, c'è il codore, se l'ha buttato in acqua la plastica. E forse così, invece è l'umido se lo fa radicare in campagna, che ha provato a mangiare. E andate, fa bene così. E avere questi contenitori in casa non va bene. Siamo nella magistrata di quelli vedi, sì, una moca, me lo vedo, mamma mia. No, l'altro giorno che ha pulito i pesci, mi ha avuto, li ho messi in due buste, in quella delle due spillate, sono serrati, sono cadute a destra che non ha fatto veloce. E allora me lo tengo in casa a Pappiaco, no, poi a Barri, mi dici, figurati le buccone, a Rubiaco, no, no. No, non so che non tu devi vedere, a molto bene a quel giorno, come si alza il vento, tutti i cassonetti si sbattono alle macchine, un casino quasi. Sai un attimo questi ragazzi, io avevo un casino di 10 cassonetti, tutti rotturenti e freddi, lui la sapete. Pronto? Aprire la manovella alla porta e quindi probabilmente non l'ho sentito quando ho suonato la pagavo e anche se uscì non ha giocato ma mamma mia devo andare ma non devo fare devo fare il bagno boh. Via e non ti basta per stanotte una butti no non mi basta. C'è gente, coso, lo siamo in quattro a casa, non è che questo sta pure raccontando, se era stato come te prima, ci buttiamo chi sta nel rubinetto, ma là non ci può più bì. Poi esce a mano, comunque sta qua, non so se fatti il bagno, un po' di bruci, se ti imbrutti o se ti lavi i freddi di bagno. Oh, ma c'è uno schifo questa, da poi il madano è un filo, mi tocca attaccare sempre l'autoclave e bravi, le vave da grossa, fa lo schifo, ma tanto io se la so per le baga. Ma chi su, è poco ma sicuro, che sarà, dai. Io... Lucrezia. Via. Ahia ragazzi. Ci scolore, vaffanculo fondato. Ciao, beh io chiudo là, vi saluto. Ciao Gianni, buon proseguimento di serata. Ciao Luca, ciao Grote, se c'è ancora. Saluto il circolare, Gio Maria non c'è più tratto, sta buffando la zuppa. E vabbè, ciao. Intanto chiudo anch'io adesso che devo fare il bagno, va. Così mi decido esco. Ciao, ciao Luca, ciao anche a te. Buona serata a tutti e due, dai. Ciao Robert, se l'ascolto. Ci sentiamo magari più tardi, se è tratto. Vado a farmi un bel bagnetto, va, che già ci ho pigliato un po' con l'eva. E già poi ho preso acqua, cazzo, ho qua in fuccia, poi gli si bagnate ancora. Ma io ho potuto mangiare sotto a lei, tutta la mattina. Ma io, andava, dai, capagava. Sì, all'inizio sembrava che ci fosse il sole, dopo ho cominciato a fare, ma boh, vai con pelle il suo tempo. Ciao Antonio Grobbe. Ciao a lui, vediamo un po'. Poi ti farò sapere. A Gianni lo lasci. Va bene. No, dico, se... La scheda va bene, boh. Ma che... sì.